Hola, com'è Claudio? Tino. Eia, guarda questa qua, com'è? Ha cambiato qualche cosa qua? No, è sempre leggermente satura la modulazione. Questo è il 3600 con l'MB+5. Vabbè, sto ascoltando con il presidente, non è che... Ascoltami bene, perché è molto importante. Questo è il 3600 con l'MB+5. Io mi sono già sentito in cuffia ed è buona. Va bene. Allora, va bene? Sì. Vado a vedere, questo ti ho detto è il 3600, il Superstar 3600 con l'MB+5. Sì, già va bene. Sì. No, assolutamente no, questo nasce così. Che brutto, okay. Questo nasce così, il bip è interno. Non so se si può togliere internamente, non lo so, però non ne ha pulsanti del bip. Non piace neanche a me, infatti non è che lo usavo molto, però è così. Ma è fatto già... Ti mancava la radio? Cosa? Sei troppo alto, cosa hai detto? Oh, è stato già tirata con la radio. No, originale, non è stato fatto niente. C'ha 10 watt di portante e 15 modulati, è così questa. C'ha le bande laterali, questo è il... adesso non so se è il 120 canali o che cosa, comunque c'è le bande laterali, AM, FM, USB, LSB, eccetera eccetera, FGM, KGN, sì, è completa. Non so se è il 120 canali o il 240 canali, non me lo ricordo. Aspetta un attimo. Chi è? Io, ciao. No, entra la radio ma non stai uscendo. Chi è? Antonello, tu sì? Eia, mi senti? Proprio c'è qua. In LSB. Sì, stai uscendo male, cos'hai detto? C'è un casino a casa. Tra piatti e quant'altro. Lima Sierra Bravo. Lima Sierra Bravo non lo puoi usare. Lima Sierra Bravo. Ricordi che l'AM si usa in USB, non in LSB. Certo, ho detto CW, FM, M, USB, LSB. Vai in USB, vediamo. E tu passi anche in USB, LSB, non la posso sentire? Sì, ma no, non molto, già lo sai che faccio la patente. Ok, USB, vai. Anche io, quella della camion, vai. Cos'hai detto? Ma vorrei. Io sono USB, aspetta, adesso sì, ero in USB, però non riesco a coltrare per accentrarti, è talmente sensibile, non riesco a centrarti, ma tu mi sentivi bene? No, non perfetto, per quello che lo è. Prova di nuovo, USB. Ma tu devi rimanere fermo, non è che devi centrare a me, eh. Oppure centrami tu, non lo so, vedi un po'. Aspetta, passiamo nuovamente in USB. Ancora troppo amplificata è qua. No, va bene, ottimo per la truppa. Io l'amplificazione la lascio stare così, va bene? Così va bene, sei 9-10. Se te l'ho detto, 10 watt e 15 modulati, mentre in FM sono 15-20, banda laterale lo stesso. No, va bene. Ottimo per la truppa, va bene, dai, comunque, no, sono contento perché banda laterale non l'avevo mai provato. 7 Hz è una fesseria, va bene, dai, almeno abbiamo provato anche questo perché non l'avevo ancora sentito, c'è anche una bellissima ricezione. Ok, io vi saluto, ci sentiamo stasera, dai, quando ho terminato il trabacco ci sentiamo stasera. Ciao a tutti, ciao Tino, ciao Antonello e chiunque fosse in ascolto, ciao. Ma dimmi una cosa, quanto è? 4 poli? Sì, 4 poli allora. 4 poli. MB+5 lo sto usando a 4 poli. Ma originale, tipo, come so, preciso alla connessione? No, quello del Midland è al contrario, devi invertire un filo. Quello del Midland è al contrario, devi invertire un filo, capito? Io sto usando quello del DAC, è praticamente uguale, quello del DAC è uguale, mentre quello era la 48 devo usare l'adattatore, perché c'ho l'adattatore io a 4, lo stesso che mi adatta a tutti i microfoni, capito? Vabbè, da parliamo a verticale, ok, ma no, guarda, devi andare, non c'è problema, perché lì rimane senza microfono, insomma. Ecco, ti prendi quel più 4 che c'è e ti fai la connessione direttamente a Superstar. La connessione della LAN 48 la lasci con la LAN 48, la connessione di quel del President la lasci col President. Ogni microfono, se no devi avere un adattatore come c'ho io che ti puoi usare tutti i microfoni, perché io c'ho un adattatore che non ha quel punto d'incasso, quindi posso girare il connettore, metterlo al contrario e mi fa usare tutti i microfoni, capito? Adesso stai utilizzando 4 o 5? No, adesso sto usando il 5, il 4 lo devo prendere dalla scatola, metterci la batteria. Io ho il 5 perché lo uso spesso il 5, capito? Perché c'ha i toni e quindi lo uso spesso. Questo è l'MB più 5 che avevo comprato da Gigi Vulcano. Vabbè, guarda, già sentiamo forse, tanto io devo scendere, sono un po' fortunato perché Gabriele è una partita e quindi dobbiamo giocare forte. Va bene, no, io vabbè, alle 3, ma già sono qua in casa, giù nel cantiere, dai, sto facendo i lavori. Non mi vedrei a nessuno, sto andando però, dai, se no così terminiamo questa cosa e me lo tolgo a mezzo alle base. Dai, ciao Antonio, ciao, ti sentiamo stasera. Ok, te lo far sentire, almeno sei tranquillo. Ok, ciao a stasera, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao Fra, ciao. Ciao ciao ciao Fra, ciao ciao Fra. Ciao Tino. Ciao anche Antonello se è forte. Che fa? Ciao Fra, ciao Tony. Ciao ciao. Ciao Fra. Sono di sub, non ho capito cosa cavolo sia. Tutti i giorni ce l'ho qua, allucinante. Hai pagato la bolletta dell'olio? Ah, vabbè, cosa cazzo non lo so, se la bolletta della luce cosa cavolo sia. Sono stufo, sono quasi un mese che c'ho questo disturbo qua. Perché tu non hai pagato la bolletta della luce? Se l'ha pagato quel disturbo se n'è andato. Visto che io non ce l'ho, direi che l'ho pagato. Guardi Tino. Ma cosa puoi utilizzare? Un Lincoln? Tappa. Però qua non ha appena saturazione, lo sai. Ti sento con questo col 44, ma qua si fa il matto, prova. Ok, vieni a vedere adesso com'è. Poi, lasciala così. Ecco, poi ce l'ho messo a giochi. Lascia così che tanto difetto è basta, invece così è perfetta. Ecco. Sì, beh, a parte che me lo dimentico sempre che spinge il microfono. E allora, va bene. Vai, vi ho fatto l'affare. Con la scoperta grazie a Claudio. Cavolo, ma guarda un po'. Vabbè, copiandolo già è facile. È facilissimo. E allora, ti piace ancora questa modulazione che ha Franco? No, tutto questo entusiasmo, tu dimmi tutto, dimmi. Aspetta, Tino, ciao anche Antonello che sto uscendo, che sono venuto gente, sentiamo. Ciao Tino, a stasera. Sì, ciao. Ciao, non c'è problema. Ora. Tanto è. Cazzo, c'è un disturbo, cazzo, una cosa allucinante, tu, tutti i giorni, cazzo, ma una cosa allucinante, no? Cioè, a parte le cose, se io metto un antennino per dire, ma il terrazzino lo sento un bel, ma lo sai quanto lo sento, non sento più niente. Se avessi qualcosa di sotto, che sa cosa cavolo sta usando quello di sotto? Ma ascolta, come lo senti? Tipo protettando, così? No, fa... allora è molto piccolo. pezzo molto piccolo, ma non era molto piccolo di sotto. Hai capito? Il discorso è quello. Chissà cosa cazzo ha montato per le... le balle piene, va, veramente, è della parte sua, che io vado a basso in pratica, capito? Invece la parte non lo sento. Come cambiare cara adesso lo sento? Lo sento in tutti i cari. In tutti i canali lo sento, lo sto dicendo, lo sento in tutti i canali. Auguri allora. Se viene a casa, guarda, te lo faccio vedere, perché è una cosa allucinante. Bene, ascolto, la 3006, il bit si può eliminare? No, assolutamente non puoi eliminarlo, tanto meno nel 2009. Hai capito? No, nulla. Ma aspetta, perché ti do la conferma di cos'è. Mi sembra che 3006. Superstar 360. Sì, vabbè, quello sarebbe in pratica. Generali 360. Generali 3006, scusa. Sì, in pratica il cugino del 3006. Vabbè, ho capito. Diversa tipologia di cosa, ma... Esatto, sì, ci sei arrivato. No, non è proprio il 3006, infatti. Appunto. Aspetta un attimino, sono qua, facciamo una cosa al PC. Ok. Comunque c'ho anch'io questo disturbino martellante. Come? Aspetta un minuto. Voglio capire dove cavolo di questo disturbo strano, perché sei di fronte a casa mia, immediatamente comportati e quando vi faccio spegnere le apparecchiature, se no se la prendo in culo, chiamo i carabinieri e sono cazzi suoi. Quindi non vuoi fare nessun tipo di controllo radio, se ti faccio ascoltare un'altra radio? No, sento questa cosa. Sotto di te, sento questo, hai capito? Non è che sento la modulazione pulita, lo sento in tutti i 40 canali, hai capito? Il 27, anche addirittura il 29, non solo l'altro. Ecco questo, da sfatilla. Vabbè, così è un discorso diverso, perché superi il difetto, logico, prova. Guarda un po', si è cambiato la musica. 9:20, radio 5 a bomba. Vabbè, questa, no, te volevo far sentire un'altra radio. Cioè, però il microfono normale, così mi dici se è la radio. È una bella radio, la verità è una bella radio. Aspetta, guarda questa invece. Cosa cambia? Ti sei abbassato, 9:05. Va bene, è abbassato sì, non mi frega dal segnale. La radio sempre satura. Bassa, ma satura. E tu sento... Ho capito, va bene, allora no. Ho provato a mettere un precedente con un microfono normale, però sicuramente il precedente ha la col cavo si chiama, e toni bassi, troppo bassi. Bisogna aprirli un po'. Sì, vabbè, quello che è. Comunque io ho un disturbo che segnalo i 5 addirittura, quindi figurati tu. In pratica uno se lo porta presso. Capito, no. Va bene. Era per vedere un pochino come era questa qua, 360, quindi non è 3006. Questa è un'altra cosa, un'altra batosta. Lo so. Piccato dove capito dove cavolo proviene questo disturbo qua. A un certo punto, adesso veniamo lo cerco, piano piano, e vediamo se è il piano di sotto oppure se è il distributo di fronte. Perché se è di fronte, in pratica le faccio spegnere le apparecchiature. Come va, secondo c'è un'attività, non credo che tu possa spegnere le apparecchiature, c'è un'attività, se crea disturbo dovresti chiamare la Striscia Notizia e Capitan Bertosa per risolvere il problema. Quello sì, lo faccio te ora, non è che lo faccio tutta la sera, no? Se la volta è chiudere, hai capito? Ah beh, ho capito, ho capito. Va bene, ascolta, io mi devo preparare che devo, non so, la luce ancora, e uscire e andare a Porto Torres a far giocare mio figlio. Ci sentiamo stasera magari, se coincide. A proposito, a mente ti ricordi le connessioni del Midland? Com'erano i colori e i numeri? Del Midland basta un po' tirare parecchio e poi vediamo. No, vabbè, era se ne ricordate così al volo, sono già certo. Era per fare un microfono qua al volo prima di andare. La verità non me lo ricordo più, comunque sia, vabbè, in questo momento non è che me ne ricordo di tutte le commutazioni dal 2009 all'FM500S, al Midland, eccetera, eccetera, cioè, a memoria tutto non è che può stare così. Quindi vabbè, me la colgo col tester, non è che me la colgo qualcosa, però non ci sono preoccupazioni. Vabbè, non fa niente. Procurami un 747, un M200 se ti viene bene. Un M200? Sì. Ma microfono? No, sempre l'amplificatore, si chiama l'M200. Se mi capita sì, e se no cosa vuoi ti dico io? Se capita sì, te lo faccio subito avere. Così, senza impegno, dai. Va bene, devo andare. Ciao, ciao. E via, ciao, altrettanto, ciao, ciao, ciao. Attento, Ronaldo. Attento, Gianni, lo prefetta. Attento, Franco di Sorso. Attento CR7, attento Chiellini, Cattanello, ci sei, ascolta. Attento Di Bala. Oh. Ehi, qua sono. Aspetta che posso lasciare quello dormito. Perché non risponde allora? Anche stavo spostando la sedia. K, va bene, Corriere. Quella radio. Questo è il 360 Superstar con l'MB più 5, dai. È una bella popolazione. Mi chiedi la manetta, ce l'hai, sì? Allora, mi chiedi la manetta e il microfono è a 7, dai. I toni sono a 1. Ma non c'è niente da fare. Cazzo che abbia un microfono, dico un microfono, che non funzioni bene, o una radio che non funzioni bene, è allucinante, perfette tutte sono. Bella cazzo, è una bella modulazione, cioè. C'è Claudio Spagliero però che sta guidando. Lo so. E questo è l'MB più 5, qualità prezzo, non si allontana, io l'ho provato il Turner più 3, però non andava bene, adesso la connessione è diversa, capito, non andava bene. Però più vado, ho provato il 4 e il 5 sono favolosi, fanno bene tutte e due, alla grande. Non si allontana molto dalla modulazione del Cobra e dell'altro. E vabbè, ti riconto che il Cobra c'ha il Turner più 3, quindi c'ha più acuti, però questa qualità prezzo è un bel microfono, un bel modulatore, dai. Ma è una bella radio, è diverso, una bella radio. E quanti fatti tornare adesso, Clan? Allora, questa c'ha esattamente Allora, 10 watt di portante, 12 di portante, 18 modulati. Picchia, bro. E così è, Ressana, non è stata toccata questa, No. Questa è così, provate anche in banda laterale proprio continuo, nel primo pomeriggio alle 3, che era a casa, perfetta, centrata diciamo, dai, lui col 440 mi sentiva bene a 27.075.73.72 sono 7 Hz di differenza, una coglionata, dai. Provata M, FM, USB, LSB, tutto. Buono, buono, bella roba, bella roba, va bene, bella, va benissimo. E soprattutto è nuova nuova, bella lucida, nuova nuova, ti mando le foto. Bella radio, peccato che lo Smith non funzioni, cioè non funziona, si inchiodami, lo devi prendere a colpi, capito? Evidentemente cioè, o non è il suo oppure ha preso qualche colpo, c'è la freccetta storta, boh. Sì, quello lì basta aprirlo e vederlo un po' come. Sì, vabbè, io non tocco nulla. Lascio tutto così. Sì, vabbè, sì. Capito, ma non ho giudicato nulla, questa così è arrivata così e così rimane, ho massimiliato, d'altronde sono 10 watt, non è che, capito, 10 watt, 12 dai, di modulati, poi sale, e col fischio va anche di più, però già va bene, dai, ti rendi conto che sto spingendo col microfono preamplificato, quindi già va bene. Ascolta, è un palmare, non si può parlare lì. No, qua a Palmare non ce n'è, non ce n'è, qua ci vuole il quello, io quelli che ho a disposizione, che tu ben conosci, non vanno bene, però va bene anche col Palmare sicuramente, sicuramente. Non vanno bene, ma neanche con la prolunghetta? No, non capisco il perché, non capisco il perché, io addirittura sto usando il mio l'MB più 5 con l'adattatore, perché senza l'adattatore non funziona. Quindi la connessione al contrario, va? Vabbè. Qua andava bene, io non l'ho provato, tranne più 3 prima di cambiare le connessioni, però io ho preferito fare la connessione nuova, tutto ordinato, tutto gappa gappa al Cobra, così è già pronto, tranne più 3 si usa solo col Cobra e con gli altri baracchini si usa o più 4 o più 5. Va bene, buono, buono. Penso che vada bene Massimiliano, io mi sono ascoltato e tu ci mando un messaggio a Massimiliano, se lo prova, perché tanto mi bello, 21 stasera, sono tutti a riposo. Io dopo tra l'altro devo anche uscire, che devo andare a prendere Anna che sta facendo l'eco doppia e quindi devo andare a prenderla, perciò aiuto, io lo provo adesso, così poi lo rimetto dentro la scatola e rimane dov'è. Va bene, va bene, va bene, buono, buono. Anche il mio, amico, sto usando io, ogni tanto lo Smith si blocca. Sì, Massimiliano, sai perché questo si deve essere bloccato? Ossia addirittura, come si dice, la lancetta ovalizzata o il vetrino all'interno, non lo so, all'esterno è tutto a posto, boh. A forza di stare ferma la radio, magari tenendola al caldo, al chiuso, capito, qualcosa è successo, perché a funzionare funziona, solo bisogna prendere la colpa per tornare indietro. Infatti gli Smith sono poi approssimativi, non è che servono a niente, non è che servono a niente, sono un segno approssimativamente, quello è il segnale, dai, va bene, no, sono contento che funziona bene e che vada bene anche l'MB più 5, almeno i microfoni che sono a disposizione, il 3, il 4, cioè il 3, il 4 e il 5, è vero, sono tutti funzionanti e con tutte le radio vanno bene. Purtroppo non ho l'adattatore per provare il Ranger, capito? Se no anche quello secondo me spinge bene con il microfono a tavolo. Perché mi sembra che quello lì abbia le sei punte Massimiliano, a sei punte, quindi ci vuole un adattatore oppure il connettore suo, preparargli un microfono e lasciarglielo pronto per il Ranger, capito? Però c'è il suo microfono originale, funziona anche molto bene, io l'ho provato anche col microfono originale, funziona alla grande, radio 5 è perfetta, non è amplificata ma è abbastanza forte, dai, sempre modulando CIO, eh. No, vabbè, anche quella lì c'è una bella radio, mi piace. Sì, sì, è bella perché è tutta digitale, ha un bel frequenzimetro, è bella, una bellissima radio, che a me piace, tutta display tutto arancione, tutta bella illuminata. Questi sono, insomma, radio che funzionano bene, sono radio che sono sempre andate bene, io negli anni che fu non avevo il 7000 DX, figurati, il Superstar che è il più grande, quella versione da 50 watt, che c'ha Mario Babbo Natale, non sono mai riuscito a portarglielo via perché non lo dà nessuno, una bellissima radio. Vabbè, no, buono, buono, vabbè, cosa ha detto Tino, gli piace la modulazione, cosa? Sì, sì, mi ha dato gli ottimi controlli, l'abbiamo provato appunto, ho detto usa il 440 per vedere la centratura, se è giusta, l'FM è favoloso, e anche in banda laterale, va benissimo, la grande. Beh, se va bene in banda laterale, figurati, e lui ha col capo il tuo baracchino, allora è perfetto. Sì, ciao! Uno spostamento abbastanza piccolo, là, pensavo molto di più, il fine corse l'ho praticamente spostato di pochissimo, però sono rimasto fermo, mi ha centrato lui e mi ha dato risultati, quindi il decimale era 0,70, 0,72, però è molto importante quando non vai oltre, perché se mi avesse dato 27,076, capito? Allora è già un megahertz, è diverso. Qua stiamo parlando di pochissima roba, perché era 0,75.70-72, una cosa del genere. Solo i decimali si spostavano e basta, capito? Però era abbastanza in isonda. E allora la grande? Vabbè, la prova va fatta con una radio HF per vedere qual è la differenza che c'è tra il baracchino e l'HF, ti dico che è poco, va bene, poi tutte le bande, anche in FM, AM, tutto, USB, LSB, va bene, ottimo per la truppa. Ma guarda, lì ci sono due trimmerini che stanno a toccare appena mio ombra, ma se tu, va bene, tu lo vedo, va prima, allora il VR13 che sono in watt, tu quello lì lo porti con 5 watt, 3 watt, e sono sicuro che la radio aumenta ancora di più. Poi c'è il VR14 che è la modulazione, e l'apri tutta, vero? Perché c'ha gli stessi praticamente riferimenti del Typhoon, del Pluto, la stessa cosa, tutti uguali sono i baracchini. E allora, metteci la mia, io? Non lo sapevo, Massimiliano, io se i baracchini ce li ho, ma no, non li apro, non li tocco, niente, questi sono stati tutti rivisti, ricontrollati, visti pregi e difetti, ma ti dico che i difetti non li hanno, stronzate come questo, lo Smith, quello là che bisogna dare una pulitina all'interno, basta, però è nuovo, buonissime condizioni, dai, certo quando l'ho tolto dalla scatola era un po' bruttino, però poi l'ho tutto pulito, lucidato, adesso è nuovo. Poi lo mandiamo a foto, lo voglio vedere. E oggi ti andiamo a foto, ma ce l'ho già attesa, sì. Vabbè, il coperchio è nero, quindi poi già si vede che è bello lucido, bello pulito. Guarda il frontale quanto è bello, lucido, le cromature perfette. Bello! Massimiliano, si aggiudiva una cosa, la forza bella. Tutto è tolto, le manopoline, lavate con lo sgrassatore, ripiazzate, è lucido. Sto mai scendendo dalla fabbrica. Dimmi una cosa, quel pulsante dove c'è scritto l'orbo, mid e HI, che posizione ce l'hai? Quel pulsante viva HI. No, quello lì sono le bande, mi. I canali? Allora. Scusi. Certo che sì, già provato. Vabbè, è già in movie, se gli altri sono le bande, quelli sono i canali. Questo ricordi che il 360 è il 120 canali, Il 3009 è il 240 canali. Pensavo che fosse la potenza quella. No. canale sotto e il canale normale, capito? 1.40, 41 e 40, 45, dai, da, vabbè, già mai capito. Adesso sono centrati, dai, dall'1 al 40, capito? Sì, ascolta, non è... Non si muove perché è fermo, si muove però non cammina, capisci? Si sposta appena appena ma non cammina, bisogna controllare. Vabbè, 4x3 è 12, non c'ha tre bande, sono 120 canali, 3.600, 3.60 è così, 3.900, 240 canali. Ce ne modifiche i vatti qua, i vatti sono questi e questi sono, e va bene, perché insomma c'è già 12 watt di portante muta, 18 modulati, si quasi a 20 watt, andi voi, arrivi benissimo. Quant'è il segnale di da te? 25. E cosa vuoi di più? Ancora di più? Non posso attaccare neanche nessun linearetto di quelli che ho piccolini perché c'ha troppo ingresso, capito? Non va bene. Lo so, ma se tu le tue di quelle 4 bitti che c'ha, la faccia bella, sono sicuro che la radio è ancora più bella. Ehi, ma capisci a me, oramai rimani così, già va bene. Andale, anche io quello modulo non funziona, lo sento io qua, Ma del magno? Tornano, che è uguale praticamente al Pluto, al Typhon, dai, quello lì. Veglia, Tornano 4005. Sì, è uguale al Pluto e al Typhon 2. Sì, noi tutti uguali, so. Questo è bello perché è tutto cromato, molto bello, un bel baracchino, sì. Va bene, aspetta Anna, se devo uscire. Ma tu lo devi prendere a colpi, no? Sì. Questo mio Antonello me lo fa muovere, lo porta a fondo scala e poi a fondo scala vuole dare un colpo per tornare a scendere. Gli altri non riescono a farlo muovere. Io non si ne fu più una sveglia, non è che gli ha fatto uno switter, non so che tecnico, poi lo tocco, apro, faccio l'anno, non rimane così, non me ne frega niente. Gappa, sai che mi fa dato un messaggio il giovane, tra che lo rispondo. Gappa. Non sai che ce l'ho messo tutta la roba, tutta la radio, quelle luci. Cosa una sveglia? Ho detto tutta quella radio, quella roba che ci avevo, quei tre scatoloni, tutto dentro. Cosa devi fare? Lì devi mettere il gemello del mio, ok, col microfono a tavolo, e poi l'altro il magnum te lo organizzi per la banda superiore. E basta, uscì, si è arrivato, alla grande. Sì, adesso mi domenica mattina, se ho tempo, facciamo quella cosa là che abbiamo parlato. Sì, va bene. Non c'è problema, Massimi, non c'è problema. Cazzo, mi appoggio uno capellino così, che cavolo, la pena già c'è. Eia, mandami un vocale, che non sto affannando però, quella cosa che abbiamo stabilito, perché abbiamo stabilito tante, però sei ancora indietro tu con i lavori, mandami un vocale. Vai, che te lo mando. Sì, no, pensavo quell'altra roba che ho io, capito? Va bene. Cappa, ok. Non c'è problema. Facciamo anche quello, così sei pronto a mettere tutto in ordine lì. Perché non voglio mettere il mio, quello grande, mi capisco, mi arriva un po'. Normale. No, io no. Mi provato questo, Massimiliano, io con il baracchino ho finito, li ho tutti provati, tutti in ordine, ieri ho fatto la prova proprio del 9 col Cobra, del Tane più 3 già l'hai sentito, ed è già dentro la busta di nuovo, dentro l'armadio, già conservato. Adesso ho provato questo Superstar perché lo voleva sentirettino e basta. Dopodiché li bigio tutto e continuo a modulare come stavo modulando. E lo scatolone è pronto, ordinato, tutto ad hoc. Lascia perdere, è una rottura di scatole, non so dove appoggiare l'unità, questo micro, quella è da macchina. Lascia bene, mica io l'avevo sentito, quello ce l'aveva Pierpaolo, uguale a quello lì, e usciva molto bene dalla macchina. Io me lo ricordo, me lo ricordo. Ed è molto bello anche perché non è ingombrante, uno che si vuole mettere il baracchino in macchina c'ha praticamente questo baracchino che è quanto un veicolare VHF con l'unità staccata e i comandi ce li ha tutti al microfono, cambio canali, squelch, volume, parla ascolta, tutto da lì fa ed è tutto illuminato, tutto in verde, bello mi. Sì, quello lì a qualche volta il camper volare. Il camper è qualcuno, qualche CB che se lo vuole mettere in macchina ordinato, capito? Che c'è il cavo lungo per l'unità, il microfono anche lo stesso, il cavettino lungo, se lo appende da una parte e fa tutto da lì. È bello, no, bello è bello, solo io non l'ho manco provato, la verità. L'ho acceso, l'ho visto, ho controllato se ci mancava qualcosa dentro la scatola, già c'è tutto. E l'ho rimesso a posto. KK, positivo, dai dai. Ehi, Gai e Goi, già va bene. No, Anna ci sta salendo a piedi, dai. Non ci devo andare a prenderla, quindi dopo porto il cane. E la giornata è andata. Ho fatto un culo oggi, Gai. Sto mettendo i paletti, quelli bianchi e bianchi rossi, dai. Quelli lì, per non parcheggiare le macchine, l'uscita dei cancelletti. Ne ha versato 4 col mio vicino, abbiamo montato 4, però cazzo è tosto il catrame, eh. Davvero, che volare anche quel martellino lì, ricordatelo. Quello sì, quello quando serve, se dobbiamo fare fuori, quello è micidiale per, capito, per muro mi, con la punta, la trappa non funziona molto bene, e quindi quello vabbè, quello lo rimettiamo a posto. Va bene, non ti preoccupare, già è lì, non è lampado in Ramondezza. Va bene, va bene. Manca, mi lascio la radio accesa, però mi faccio qualcosina, se no sto portando via la radio, ho trucato. Dove c'è anche Daniela qua che sta facendo, così mi ordino un po' tutto, se no domani metto un casino. Ehi, domani mattina te la portano, domani sera la cameretta. Domani mattina alle 9, capito? Domani mattina alle 9 e allora ce ne stava andando. Ma e non ci vai a lavoro allora? Tu ti hai preso un giorno di ferie? Voglio fare al lavoro, cioè c'è Daniela. E non si vediamo. Ma non era meglio che ci rimanevi anche tu, eh? Che la cosa, fai da manere di prendere unghie. Vabbè, c'è sempre tu, no, c'è tua roba, già sei tuo padre, quindi non c'è problema, dai. Sono persone fidate qua. E vabbè, l'importante è quello, non lasciare Daniela da sola, capito? Anche io sono incasinato, abbiamo finito sta cosa, se no magari lo farà dove io. Va bene, dai, fatti qualche cosettina, anche io lascio acceso e se entra qualcuno rispondo, se no pazienza, ok? Mi confermi quindi tutto a posto, tutto a roggero, lo posso attaccare? Sì, sì, lo puoi attaccare tranquillamente, la voglia, la grande. Io prendo e fa un muro a questo. Vabbè, ok, allora è fatto, io Mondesta non ne do, roba che non funziona non ne do. Prima di darla, giustamente io le radio le ho provate tutte, quelle che sono in partenza sono tutte a posto, funzionanti al 100%. Va bene, dai, ci aggiorniamo dopo, passo e chiudo. Via, qua sono, no, io lo chiudo, io lascio così, se c'è qualcuno ascolta, ogni tanto prendo, già entro, ok, a dopo, ciao. Ciao, a dopo, ciao. E chi è? Chi c'è sul canale 10? Sì, che vengono tutti i cani. Che c'è? Che ne accudiscono tutti i cagnolini ora? Tutti i canali? i cagnolini, ma non mi senti? Stavo guardando altre cose, no? Ma stavo sopra, io sono già un... come dire, da buona qua, sono di più. Stavo guardando che cosa era al PC, sono in ascolto, non sento nessuno. Vuol dire che non erano più gli altri. Allora, ma... volevo sentire a Claudio, ma adesso non è voglia di entrare. Io sono rientrato adesso, sono rientrato. Però ho fatto le altre. E mi vedo da qua. Sì, ciao, ciao. Vabbè, no, io ero fatto che c'era Gabriele che stava facendo una partita a pallone, quindi hanno finito, adesso sono rientrato, fra un po' vado a mangiare qualcosina. Ecco. E non mi ha la mattina. Ha guadagnato un bel culo a me, e vabbè, ecco, magari chissà. Se mi viene l'angolino, se ci sarà qualcosa adesso. E allora, ma... è così. No, però guardando perché era quel fioccaduttore piccolino di quelli... di macchina, dai. Non mi ricordo se lì 150 euro, 100 watt in... non sai. Qui 150? Non mi ricordo se ne davano 100 in AM e 150 in SSB. Non lo so neanche io, lo so. Ma il 150 potrebbe darmi in AM 104, potrebbe darmi. Forse saranno intorno ai 200 in SSB. No. No, perché dalla dettagli mi ricordo che il 250 per dire non mi dava 300 watt, capito? Il 550 lo stesso non mi dava 500 watt, non mi dava. Era una classe un pochino più bassa di quelli che del 747 per dire, o quello della LEM 200 che dà sempre 100 watt in 80-100 watt in AM. Guarda, se riesci, ah no, cazzo, questo male, c'ho il 737, però si è bruciato, si è bruciato il finale. Vabbè, non ci vuole molto a mettere in un nuovo, molto costoso finale, se la parla appena o se è giusta. Non lo so, non lo so, io glielo ho tolto, glielo, e ce l'ho qua, ce l'ho, al limite se ci riesci a giustarlo, no, lo posso anche dare, non è un problema. Sì, ti ringrazio, ma io sinceramente le mani dentro non le ho mai messo perché non mi perdo, più se qualche cavetto così, dovrei darlo a chi che sa meglio di me queste cose qua, perché non ci batte qua dentro, non so più neanche cosa cambiare, se non so vedere, capito? Ma se ne vuole appena giustarlo, lo aggiustiamo. Guarda, se ti ascolto male, ti ascolto, sì, come dentro una camera vuota, proprio... e a volte non riesco a capire le parole. È vero, avevi ragione, ora è migliorato. Sì, adesso sì. Vabbè. Avevo spostato il... troppo forte era come amplificazione, credo. Avevo spostato involontariamente il cursore. Ecco. No, mi sa che non si può più aggiustare invece. Lo sto guardando. Hanno tolto il finale, è andato anche giù un pezzo di pista. Ah, capisco. No, io fra, sinceramente non ci metto le mani, ma c'è un amplificatore piccolino qua a poco prezzo, diciamo che dovrebbe essere un 100 watt. Vediamo, vedi, amplificatore sponsorizzato per uso mobile e non potenza circa, 100 watt in AM e 200 in SSB, e questo è il B150, esatto, quello sto facendo io. 9 euro di spedizione, 35 euro la spesa, non è neanche tanto, anzi. Sì, no, non serve a niente. Meno male, sei entrato. No, io infatti mi ricordo che è inferiore al 474. Sì, guarda, ciao a tutti e due, ci stavo ascoltando, stavo finendo di cenare. È inferiore, guarda, anche al 747, non so, perché si chiama B150, ma non dà neanche 100 watt. Ce l'avevo io, un cesso. E poi devi dare pochissimi watt, perché altrimenti ti sacca la modulazione. Vero. Ho visto il prezzo e sembra appetibile questa cosa, se funziona. Io avevo il 250, ma spingevo, il 250 spingeva, se avevo in macchina. Tu pensa, quando entravo nelle gallerie, che si accendevano tre luci. Io c'avevo 300 quando per la prima volta montai la radio in macchina e funzionava bene, però erano già un po' modificati, andavano molto meglio. Ma adesso sono roba vecchia. Ma ti conviene prenderti quelli BA, LA, come si chiama, quelli della CTE che ci sono. Quello che c'ho io della CTE è un 300 watt, funziona benissimo. Funziona benissimo alla grande. Quarta marcia da intorno ai 200 watt, 180. Quindi vanno bene, vanno benissimo, ma quelli della Delta G sono una cagata, fra. Sì, scusa, fra, poi rilancio il mic a te. È vero, avevo il 300, il B300, ora che me l'hai fatto ricordare, che me l'aveva dato Antonio Pinguino, me l'aveva regalato addirittura, veniva la tua, ma te, che stai in macchina? Poi non so che fine ha fatto, porca miseria. Io l'avrò apprezzato sicuramente, poi, come tante altre cose, che non sono mai tornate a casa. Vabbè, pazienza. Sì, B300, B250 non c'è, vai, fra. E invece il 735, poi rilancio a Franco. Ma niente, 35 watt. Ok, fra, riprendi. Senta, lei non è un problema. Ma il B300 è della ZG, fra. Cosa? Il B300 è della ZG. No, ma adesso la ZG B300. Tanto quello che ho io è della... ci deve essere tra scatolo, è simile al 747, sempre col finale a MOSFET, però è a 6 marce, capito? 6 posizioni, mentre il 747 non ha posizione, è una linea retta che funziona bene, non satura, te l'ho fatto sentire, no? Non distorce la modulazione, va bene, tira fuori in AM. In sesta marcia non l'ho mai provato, ma in quarta e in quinta siamo già oltre i 150 watt, quindi è più che sufficiente, capito? Ecco! Chi è questo? Dovrebbe essere Daniele, se non mi sbaglio. Buonasera a tutti, salutoni circolari! Ciao Daniele, ciao! Sì, ciao Daniele, ciao Daniele, ma fra, sono io? Sto notando ogni tanto cali di segnale, prova. Sto calando di segnale ogni tanto. Non lo so, vedi? Ma si è agganciato? No, negativo, niente aggancio. Ah, allora sono le picchi modulazioni che hai. Ho sbagliato io. Ciao Daniele, buonasera, avanti. Buonasera anche a te, Cla. Ciao Franco. Non so se l'ho sovramodulato prima, perché qua c'ho il QRM a manetta e non lo sento. E va bene, riprendi, dai, Cla, fai girare. E io l'ho Alessio, acceso, 5 e mezza, sì, c'è la mamma, nulla. Ho chiamato Massimiliano, le ho fatto sentire il superstar con l'MB più 5. Allora mi chiedi, impegnente a entrare dopo cera? No, io no, io adesso fra un po' spengo tutto e vado a vedermi la TV. Appena finisce Uomini e Donne, che c'è Uomini e Donne ancora. Arrasta dei programmi la Baidani Obbide, Maria De Filippi, Barbara D'Urso e Giovannino Appioli, il cocco, cazzo, vai ti. Ascolta, invece il come cavolo si chiama? 737, lo conosci? Sì, 737, sì, è sempre finale a Mosfet, lo fa la CTE, è un bel dialettino. Però poi dipende da cosa vogliamo, ti capito? Perché per casa, se ti hai usato un baracchino, ti puoi aiutare con un 747, 757, linearetti così, capito? Se pure devi usare macchina, hai già bisogno di un B300, se no da casa sono più che sufficienti quei 50, 60, 70 watt, tanto lì vuoi andare, non è che... Se poi c'è gente che vuole fare competizioni e balle poi va, ma che le facciano, che cazzo vuoi consumare corrente a stare con lineare a valvole e a girarmi le balle, non me la fatti nulla. Giusto per aiutare un baracchinetto di questi vecchietti che ci abbiamo, va bene un 747. Oh, senti, prima era diverso, prima era più combattivo, prima aveva un chilo, forse anche due, poi gli scattava la luce, poi bisticciava con la moglie perché pagava troppo di luce, adesso invece è rilassato, tranquillo, si vede che è pensionato. Oh, si vede, allora il problema non era che bisticciava con la moglie perché pagava troppo luce, perché gli seguiva la televisione e gli seguiva la telenovella. È vero, è vero. Sì, fra, io ero già in battaglia, era già fatto un bel, non con giocattoli, con amplificatori da 3-4 milioni, tipo il TL922, e similari, Sommercamp, e tira campa, poi basta, cioè, per fare due chiacchiere in città, io ho già una radio che tira fuori oltre 100 watt, ce l'ho sempre a 10, 15, 20 watt, vabbè, voglio usare i baracchini, sono tutti baracchini che hanno 20 watt, 15 watt, non li vuoi andare, li vuoi aiutare, e ne ho 4 linearetti dietro l'armadio, li attacchi uno di quelli e tira fuori una cinquantina di watt, vabbè. Ma le storie sono finite, sono finite, no? Non si bolca, non si chiede, a parte che insomma i consumi sono superiori adesso alla luce, eccetera eccetera, però già ne abbiamo usato, dai. Io ho quello HF che l'ho staccato, l'ho tolto, quello l'ho preso a Vannino della IAS, l'ho tolto, sono dentro l'armadio. Quello che c'era tutto di retro, il volto bene con la carta, quindi le due valvole, le 857 che sono valvole anche abbastanza costose, l'ho conservato, non me ne faccio niente, fatelino in chiave a monumento, non fa cosa, l'ho tolto, anche quello un kilowatt e mezzo lo tira fuori, tira in AM, tira fuori 600 watt, e cosa ne vai, ma fa cosa, ma fa vedere a chi, come, perché. Che giochino, che facciano, me lo fa sempre. Avanti, Daniele. Cava, cava. Ah, stamattina ho chiamato a Cagliari per chiedere delle informazioni su quanto riguarda le installazioni delle antenne. E cosa ti hanno detto? Ho detto che in poche parole, la finzione neanche, è che non posso fare i cognomi, ha fatto parlare con questo qua, dice che è abbastanza esperto, infatti già si vede quanto era esperto. Gli altri ho trovato io una legge dell'area di Firenze, però era datata al 73, mentre quella era decaduta. E allora mi ha detto, l'ha cercata su internet anche lui, e in pratica è tornata a quello che stavo dicendo io, e va bene. Vabbè, poche parole mi ha detto che io in casa degli altri non ci posso entrare. Ma niente, è una cosa normale, no? Se tu puoi entrare a casa mia, monta l'antenna. Questo è a livello, insomma, così, non da fastidio? Sì, no, come ho fatto io quando ero via Pascoli, mica era casa mia, mica era mio il terrazzo. Il terrazzo era del proprietario dell'ultimo piano. Io con molta educazione, con documenti alla mano, però se mi avesse detto di no, io non ne avrei montato, perché chiaramente non ti puoi andare a casa sua a montarle una cosa, quella è casa sua. È lo stesso discorso che io ho qua, no? Capito? Che avevamo tempo fa, forse con Gianni, con qualcuno, con Marco, Condor, eccetera. Io le antenne, quando ero nell'altra scala, ok, siccome era l'ultimo piano, usufruivo della mansarda, ok, l'ultimo piano praticamente aveva diritto alla mansarda, quindi ero io il proprietario, per iscritto, quindi le antenne me le sono messe dalla mia parte. Dal momento in cui io sono andato via da lì, dalla scala a fianco, dalla F, dalla G, sono passato alla F, al secondo piano, fortunatamente i miei suoceri, come Ripostiglio, come volevano fare non so neanche che cosa, ok, avevano comprato la mansarda dell'altra scala, quindi io le mie antenne me le ho portate dalla mia parte, ok. Quando viene Paolotto a fare i controlli, perché c'è la centralizzata e le faceva Paolotto, adesso penso le faccia più perché ha chiuso Paolotto, non so chi è che prenderà l'appalto, comunque quando veniva Paolotto per fare i controlli alle antenne, hanno cambiato a volte un'antenna, poi hanno messo la parabola centralizzata, perché noi abbiamo anche la parabola centralizzata, il fatto che è tutta rugginosa, anche per il satellitare, ok, a me mi chiamavano un giorno prima e mi chiedevano se per cortesia potevo aprire la porta della mansarda, che dovevano passare nel terrazzo per fare dei controlli con gli strumenti. Io cortesemente facevo questo. Se io non c'ero, loro si dicevo, guardi, io domani non ci sono, ok, mia moglie su non ci sale, va bene, e loro non ci passavano. No, quello è il livello di cortesia, no? Quindi tu, chiaro, non puoi andare a casa di Tino e dirle, io devo montare l'antenna, no? Tino abita al terzo piano, tu sei al secondo piano, Tino è il padrone del terzo piano e dell'attico, e tu dici, io devo montare l'antenna. No, ti fermo un attimo, questa è casa mia, io non te ne faccio montare perché a me mi dà fastidio la visuale della tua antenna, e non te ne fanno piazzare, non perché facciamo molti discorsi, si tratta solo a livello di cortesia. Quando tu vai a chiedere la cortesia a quello dell'ultimo piano, che è il padrone del terrazzo, di farti montare l'antenna. Funziona l'uscì. Infatti, mettere questo discorso vale solo per i radioamatori, perché al CB non vale. Infatti, ho già detto, prendete la patente dell'radioamatore, perché il radioamatore nello statuto proprio, nelle leggi che ci sono a livello amatoriale, perché sappi che appunto il radioamatore è un, come si dice, insomma c'è la patente di Stato, ecco, non c'è da fare. È un pubblico ufficiale di telecomunicazioni, no? Mettiamola su quel testo lì. E nella patente, perlomeno quella che ho io, la vecchia, c'è scritto nell'ultima pagina, c'è un foglietto legato che io non posso trasmettere, montare antenne in aereo, ok, e nel treno. Dal momento in cui io domani mattina mi prendo un tavolino, con una batteria, l'ombrellone, una radio, me ne vale piazzare i segni, mi siedo e mi metto a parlare, a me mi ci mettono la faccia in culo, anche se viene il Presidente della Repubblica, hai capito? Perché io sto sperimentando una cosa e voglio vedere da questo punto dove arrivo. Se non vai tu, venini di buone manette e ticunini a San Camillo, non a San Sebastiano, a San Camillo, a che dici che siamo andati a capo. Vai ti. Come quello che guida il camion con la patente, e c'è quello invece che lo guida anche senza patente. A suo rischio è pericolo. Si conferma, ma è così. Purtroppo le leggi per noi CB, noi dico noi, anch'io sono CB, è radioamatore, ma le leggi da CB sono leggi completamente sbagliate. Perché se è vero che stiamo parlando di telecomunicazione, tu dammi, mi dai una licenza, mi dai un permesso, non tanto una licenza, ma è un permesso per poter trasmettere, per poter avere un una radio di debole potenza, come c'è scritto, 40 canali, omologata, adesso addirittura norma c'è, se no te la portano via, come è già successo. Però non mi dai la possibilità di avere dialogo con le persone, di poter comunicare, di poter avere la possibilità di montare un'antenna, io da peccato parlo con muro, come diceva Falcone. È così, per noi radioamatori a livello sperimentale è tutto completamente diverso. Per radio non omologate, a livello sperimentale io ne posso avere 100.000. Posso avere tante cose, fare tante cose, sempre a livello sperimentale. Nel momento in cui io sono fisso in una posizione, devo avere la documentazione regola per poter trasmettere da quella posizione, cioè tutta un'altra cosa, più complessa la situazione. Quindi, però è anche vero che io vado ad abitare in un posto dove devo montare antenne perché sono radioamatore a patente di Stato, tu non mi fai entrare, perfetto, non c'è problema, grazie, arrivederci. Io vado con la legge e le antenne le piazzo, a casa tua le piazzo le antenne, perché io devo trasmettere, è diverso Daniele. Prendono le buone, di ragionito, prendono le buone, prendono le buone, se non lo prendiamo a sonno, se non lo prendiamo a sonno, mi l'autoscala è parcheggiata qua giù, io purtroppo non la posso guidare perché non ho la patente C, ma prendo a Gigi, io ho un'oretta e dobbiamo fare una cosa, non mi diamo a sonno, quando vede l'autoscala salire, cosa state facendo? Stiamo controllando le spaccature della facciata, 2 minuti, staff e palo, ce ne scendiamo, arrivederci, molto, grazie. Cazzo, magari che Dio ti intendi a fare una cosa del genere, cla. E invece a questo punto questo non ragiona, bisogna pigliare la sonno. No, fra, quanto ci vai da socio? Così. Siamo nessuno. Per il viaggio, a giornata dormo con gli altri. Ma perché? Non stavo seguendo bene il discorso, cla. Cioè praticamente il tipo non vuole piazzare l'antenna. Cazzo, ma tu immaginati, è una cosa assurda, Tino. Purtroppo è successo a Daniele. Daniele è a casa sua, ha una casa a 3 piani, casa sua, dei genitori. I genitori abitano al secondo, Daniele abita al primo. Il padre, cosa ha fatto? Ha affittato il terzo piano. Perché sono a casa mia? Questo del terzo piano, che è in affitto, ok, che paga l'affitto al padre di Daniele, non le vuole far montare l'antenna? No, no, lascia perdere. Allora, io abitavo alla Trevoce, ti ricordi, no? La casa mia, piano terra, pian terreno, mio. Primo piano di mia zia, secondo piano di mia zia. Sono entrato, gli ho detto, me ne date le chiavi che devo piazzare l'antenna? Ma sai, magari da fastidio la televisione, me ne date le buone o me ne date le cattive? Perché io tanto l'antenna, volente o nolente, te la piazzo lo stesso. Per via di documentazione e balle varie, già lo sai anche tu, no? E detto, non solo, poi state le piazzo una verticale e che mi batta, se no devo piazzare fili e filetti anche. Esatto, ma lì non c'era neanche bisogno di fare una cosa cattiva, buona, perché in quel contesto lì, quando si abita in una situazione che io ben ho conosciuto, già lo sai, casa tua, dove eri prima, tu c'hai una parte del tetto, una parte del terrazzo, è tua, perché tu abiti al primo piano, è casa tua, l'altro abita sopra, l'altro abita ancora sopra, avete tutti un quinto, dico un quinto perché vabbè qua è i millesimi, mi pare che le mansarde di giù degli altri scale siano un quinto per ogni appartamento, ok? Quindi siete tutti proprietari, quindi l'hai presa, l'hai fatto, e nessuno ti poteva dire niente assolutamente, neanche a via legale. Tu immaginati Daniele, cazzo, che è casa sua e questo è in affitto, ma come ti permetti? Ma chi sei tu? Ma io ti avrei dato immediatamente lo sfratto, è che il padre è troppo buono, anche lo conosce a Stefano. Se fosse capitato a me, sarei andato, avrei suonato il campanello, l'avrei detto, si segna la data di oggi, da oggi inizia a cercarsi casa, perché a fine mese voglio l'appartamento libero, ma il mio contratto scade fra 2 anni, guardi, lì va via adesso, perché la casa serve a me. Quando serve al proprietario, che tu dichiari che serve a te personalmente, anzi serve a mio figlio, ok, tu vai via, anche se c'è il contratto per 5 anni, io ti butto fuori, ci vuole un po' più di tempo, però ti butto fuori, capito? Gravio vuoto vora, Daniele, a casa vuota avremmo fatto tutti i lavori che dovevamo fare e poi affittata di nuovo, capito? Cava cla. Adesso provo a riprenderlo con le buone, cavolo, beh, già mi dice. Intanto se metto altri quegli altri due spezzoni di palo per superare quella mantovana e nuovo punto a capo, la situazione non ha cambiato niente. Perché alla fine sono arrivato a quello che volevo io, anche se ci sono 4 metri di palo in più che non ci stanno a fare niente lì appesi. Lui, vabbè, mi ha detto non le fa mettere l'altro giorno queste due staffette. Allora, vediamo se è una ciamba di idea. Con il permesso che abbiamo noi CB devi cercare di prendere le buone, perché lui c'ha un contratto d'affitto e chiaramente può puntare anche i piedi. Ora sta a tuo padre vedere cosa deve fare, perché tu a lui in parole povere non le rappresenti niente, capito? Quindi vedi un po' di sistemare le cose e se no fammi sapere qualcosa, metteremo a correre, capito? Avanti Franco. No, io non sarei salito in terrazzo, non avrei più fatto me. Anche se tu ti sei inginocchiato in terra, però non avrei più fatto. Quando ero nell'altra casa ho avuto anche io dei problemi. Qua no, qua faccio quello che voglio. E mi venga qualcuno a dirmi per mia. Però non avrei più fatto lo stesso. Infatti quando ci sono i diritti non è che c'è bisogno di bisticciare, io qua, grazie a Dio, era ancora a cantiere quando ho montato la prima antenna, perché le competenze erano quelle, la mansarda era mia e quindi faccio quello che mi piace. Adesso sono al secondo piano, la mansarda era mia, faccio quello che mi piace. Infatti, tanto è vero, le antenne me le sono spostate dalla mia parte, ho lasciato solo la mantova dall'altra parte perché purtroppo quando girano le antenne me la toccava. Però dal momento in cui io adesso toglierò le direttive, la mantova dall'altra parte, io la tolgo e la rimetto dalla mia parte, capito? Perché così non voglio avere discussioni con nessuno, però mai nessuno si è arrabbiato a dirmi chi ti ha dato l'autorizzazione, a me. Chi mi ha dato l'autorizzazione? Io me la prendo perché è casa mia, quindi, capito? Non c'è manco passaggio a dire come avevamo un discorso con Marco, ma c'è il passaggio, io entro, no, non ce n'è passaggio, non ce n'è, quello è un appartamento, non c'è nessun passaggio, le chiavi ce l'ho io ed è chiusa a chiave. L'unica cosa buona che c'è è che le finestre che danno faccia per esempio a Sassari, no? Così, vista, sì, tu apri la finestra, ti metti la sedia e salti e sei nel terrazzo. Ma da Daniele certe cose non le puoi fare, fra, perché intanto terrazzo non ce n'è, capito? Quindi devi lavorare da terra. L'unica chance che c'è è il poggiolo, quest'angolo del poggiolo, dove lì c'è da fare la staffa e montare il tubo dell'antenna. Ma questo non ti dà l'accesso, non ti fa entrare, cosa fai? O lo fai con l'autoscala, però stai andando a casa sua, quello, in quel momento è padrone di quella casa, perché tu gliel'hai concesso di essere padrone. Io ti pago l'affitto, un contratto, per 2 anni io sono padrone di quella casa, anche se tu sei il titolare, ma io sono il padrone, perché ci abito e ti pago, e quindi può puntare i piedi, bisogna prenderlo in una maniera più equa, più tranquilla, capito? Vai Tino Muccolo. Sì, vabbè, se c'è questa aria che tira così bassa, conviene prenderlo magari con le pinze, vabbè, per vivere, insomma, nella tranquillità, nella serenità, poi si trova. Se può invece ridursi, allora si adotta un altro tipo di sistema, ecco. Questo mi appare di no, io grazie a Dio non ho mai avuto niente né alla Teleroce né qua, anzi addirittura qua un giorno ci mettiamo con Luca e scendiamo l'antenna per fargli la manutenzione, perché ho un palo da circa 10 metri tra una cosa e l'altra, e quindi mi serviva una mano, più l'antenna. Vabbè, la scendiamo, cambio una verticale che dovevo cambiare, la ripiazzo su, rifaccio i tiranti, tutto quanto, a un certo punto, finito il lavoro, la sera mi squilla il telefono e mi dice: "Ti, ma da quando ti ha fatto quell'antenna non vedo più i canali del televisore?" Sicuramente perché dovrei fare nuovamente la ricerca automatica. Cazzo, poi sembra fatta apposta, sembra fatta apposta, ma io mai nessuno, perché sono troppo alto, perché antenne TV io non ne ho oltre quella quota, capito? Quindi non ho mai visto, ma quando ero da mamma la stessa cosa, uguale, come te viene visto l'antenna subito, c'è un Vicenzo Fiori, ci telefonava, va bene, ma non vai con la televisione, ma tuo figlio lo fa vedendo il baracchino, no, non c'è, è fuori, capito? Sempre ero io, fino a quando mi sono rotto le palle e alla fine mi avevo tolto l'antenna, perché ogni volta scocciava la mamma, capito? Perché anche quando io sono andato via, sono venuto a abitare a Sassari, lì c'era una Super Regibus, l'avevo lasciata. E come fratello poi l'abbiamo tolta, perché ogni volta rompevano le balle a mamma, eppure io non ci abitavo più, mio fratello era già sposato lo stesso, capito? Quindi immaginai già di lui. Sai, Daniele, cosa possiamo fare a questo signore? Sono convinto al 100%, è come vestirsi da dottore, no? Io ho ancora la divisa di Abbanoa, se io mi metto il giubbotto di Abbanoa, guruta qui in mano, gli sono un campanello e gli dico che ne aggio di stacca a leva, se non ti fa di piazzare l'antenna, io penso della fase di piazzare. magari, boh, adesso provo a prenderlo con le buone, a vedere cosa mi dice, e se no altri due, tre, se no vai tutto, mi si fa il basamento fatto bene, e altri 2 metri di palo si mettono su e poi si vedrà. Io ho visto le foto, lì c'è da lavorare con molta attenzione e ripeto, con tutta educazione, perché è chiaro che se questo signore punta i piedi succede quello che è già successo a qualcuno, ok? Quindi siccome siamo nuovamente sia la postale che l'esco post nuovamente in funzione a tasso zero, perché prima c'era un sistema diverso, adesso hanno capito che possono fare i soldi anche solo facendo i controlli, non essendo in regola, bisogna stare molto attenti, perché tu in regola non vai nulla, non vai baracchino, c'è solo la concessione ma non c'hai le radio, non sono omologate, la norma c'è, quindi devi stare molto attenti. Perciò per non far sì che questo avvenga devi cercare di prenderlo con le pinze, perché se quello punta i piedi e ti manda un controllo vero e proprio, magari sai, rischi anche di cadere dalla padella alla braccia, quindi è meglio fare le cose fatte bene. Lo dico con molta tranquillità, perché io nel 1992 facevo queste cose, molta puntiglia, molta maleducazione, molta arroganza e così via, e mi pintavano. Mi tentavano, Daniele, mi tentavano non perché andavo a disturbare, ma perché certe cose non potevo fare, le facevo. E quindi mi tentavano. Io arrivavo a casa e c'era la camionetta sotto casa. A lei stavamo aspettando, e io stavo lavorando, cosa c'è? Non so di controllare, bisogna misurare. Hai capito? Alla fine mi sono stufato, quindi per la detenzione, soprattutto per la detenzione, non tanto per l'uso, mi sono preso la patente dell'animatore, nella carta, perché non mi reputo l'animatore, però nella carta ce l'ho e sfrutto la carta, capisci? Quindi cerca di fare le cose fatte bene, non fare errori, Daniele, perché le leggi sono cambiate, da prima ad adesso sono cambiate, e se sbagli rischi di pagare molto molto salato, vai fra. Ehi Acra, vabbè, tu sono solamente un 48 normale, è tutto in regola qua, capito? Non ho più di, non c'ho più niente, c'ho solamente il 48 e bu, è un'antenna. 48 omologato, norma c'è? Dietro c'è la targhetta, norma c'è? Cappa, ho guardato, come stavi dicendo, adesso non essere omologati, norma c'è, ce li ho tutti e due, con normativa c'è. C'è la targhetta dietro, col numero, a fianco, tutto a posto. Allora tu c'è regola. so, per il quieto vivere, visto che è uno che tuo padre ha tua casa, eccetera, per nonna, insomma, lascialo tranquillo Stefano, già si è incazzato per anni al lavoro, quindi farò vivere sereno, vedi un po' Daniele, altro non ti posso consigliare, oggi come oggi purtroppo l'arroganza non serve più a niente, serve la tranquillità, la serenità, la pace e l'educazione. Se questo signore è così gentile da mettere in atto queste cose, molto probabilmente ci riuscite a montare l'antenna. Avanti Franco. Aspetta un attimino, aspetta. Guarda com'è questa qua, come sta arrivando ora? Ui. Il segnale si favola. Non ce n'è segnale così alto da lì. Cazzo, ma la radio ti è troppo satura. Vabbè, il microfono è normale. Normalissimo. Sì, non so niente, però la radio satura, un bel pezzo. Aspetta, l'ho abbassato un pochino. Così è media potenza. Adesso te lo tolgo da 50, così vediamo. Aspetta, sì. Eccola qua, questa è la sua radio originale, eh? La radio originale favola, ma quando tu mi dai una potenza del genere, da 9,5 a 9,10, se ne vai a 9 più 30, diventa una cosa pazzesca. Lo so, è come caricare una macchina con il peso di un'altra macchina sopra, vabbè. Il segnale è da paura a te. 9.30 non mi arriva nessuno, neanche dalla Teoci. L'unico che mi arriva a 9.30 a me è Marco Condor. E poi inizia a salire i miei vicini, Roberto Quadrato 9.40 e Antonello 9.50. Però da lì i segnali da quella posizione tua sono massimo 9.10, 9.15, perciò il carico c'è, però ti porta via tutta la radio T. Lo so, ma tu sai anche che questo è un microfono normalissimo, quindi al mare, senza amplificazione, senza niente. Daniele, dammi un controllo tu adesso così, giusto per vedere quanto va, Da così, come sono adesso. Ma così, cosa ha cambiato a parte la radio, Dove ci l'hai bruciato la radio? No, non me l'ha bruciata la radio. Guarda, secondo, il primo è 9, la radio è buonissima. Il secondo passaggio mi accende tutti i led dell'Inco, mi accende ma si satura. No, vabbè, ma ho chiesto a Daniele perché è più lontano, è il segnale più basso che è, dovrebbe essere il mio. Daniele. Se mi avete chiamato sto parlando col piccolino, non vi ho sentito, scusate. Allora, il segnale tuo è 9.5, Tino. Adesso, 9.5? Aspetta, sì. Fai un altro passaggio a vedere. No, dai, guardalo bene. Così è normale, Normale. Guarda ora, E così è agganciato. 9.25, l'ho sbagliato io guardando, dai. 9.25. Sei un pelino sotto a Claudio, pensa tu. Immaginati tu che qua va da 9.5 a 9.30 e il carico c'è. Però ti consentimi di dire che non c'entra niente se il microfono normale non deve saturare lo stesso. Non è perché il microfono normale, lì si tratta che c'è un disaccordo, c'è qualcosa che non è bene in accordo e ti mangia tutta la radio, ma non perché stai usando un microfono normale. Io ti faccio il passaggio, adesso va bene, non ci sta caduto il raddutto, ma ti potrò fare il passaggio col 3006, no? Col 360, lo si può fare, col microfono normale e col microfono preamplificato attaccandoti in lineare, non satura lo stesso. Perché l'accordo d'ingresso è giusto, lì sicuramente sta prendendo troppo ingresso a valvole quell'amplificatore. Aspetta, allora, diciamo che sì, è a valvole, però anche questo, vedi, questo è aiutato, ma non, anche se io metto il microfono normale, la radio è bella, chiara, semplice, tranquilla e non è prepotente, diciamo. È un microfono sono semplicissime. Stavo utilizzando il SEAT, che ha 4 watt, quindi non posso né abbassare niente, quelli a quelli devo dare. Sì, l'altro è valvolare, un valvolare che è 200 watt, quindi spinge, però giustamente devo trovare un compromesso, perché non va bene a quella radio, capito? Anzi, addirittura ti dirò di più, volevo dare questo qua che è tipo il Jumbo, non so se ce l'è presente, ma credo di sì, in cambio di un MOSFET, capito? Anche più piccolo, più basso potenza, però riesco ad... ci perdo di brutto, perché ci perdo, quello lo so, però insomma devo valutare un pochino. Quindi tu vorresti, allora intanto ti lascia perdere il SERT. Il SERT è a coso, a quarti. Non mi mettere un baracchino a quarti, paghisce di mania tu, un baracchino quarzato, BLL, con un lineare del genere a valvole, ma lascia perdere. Boga tiro dal chimio, se tu lì le metti in quel lineare, tienilo. Quando tu provi il Superstar, il 3600, il 360 così chiamato, Superstar, con quel lineare, allora mi dirai, minchia qua, ma stai scherzando, un'altra cosa, sappigino Ger, a me quel G-Sert mi saturava, col 747, roba la matta, mi saturava, alla fine, forse uno di quei, forse il Sert mio, l'ho dato a Walter, adesso mi ricordo. Perché se lui ne aveva due o tre, uno gliel'avevo dato io assieme al Royce, quel Royce che c'ha Walter con il microfono della Turner, la Palma, quello gliel'ho dato io a Walter. Quindi poi gli abbia dato anche quello lì, quello marrone, incamiciato con quella pellicola, eccetera, che è bellino come baracchino. Poi talmente vecchio e a quarti, non serve a nulla per fare queste cose, ti. Sì, no, scusate, lo so, ma io quando sono senza far niente, ogni tanto ne attacco uno e lo faccio andare, lo faccio scaldare e lo faccio provare, ma anche per farlo funzionare sia uno che l'altro. Sono innamorato del Royce, non riesco a, con gli altri strumenti verdi, non riesco a, lo devo convincere che se me lo dà uno, quello però non tutto nero, quello cromato mi piace di più. Quello cromato con gli strumenti verdi, quello li ho fatto io a volte. Ho volato anche il Turner più 2 da tavolo, quello celeste originale. Ok, è l'unica radio che gli ho fatto, bellissima, nuova, quella era riuscito a comprarla all'asta sino a mezzanotte e mezzo già nel Perù. L'ho pagata 250 euro, fatto il conto, compresa la spedizione, mi pare che si era chiusa all'asta intorno ai 200 euro, una cosa del genere. 200, 220, insomma, la trasferizione e tutto, me l'ha venuta il microfono, la tavola me l'ha venuta a 250 euro, la volta a volta, perché quella serie lì, lui non ce l'aveva, aveva l'altra serie, adesso ce li ha tutte e tre, ma il SEAT è bugattivo, lascia perdere. Quindi, ricapitolando, scusando Daniele Franco, tu vorresti fare un cambio, praticamente hai un lineare valvolare, ma cos'è il Jumbo Aristocrat, quello nero? Sì, quello nero con i tastini rossi. Ho regalato uno a Walter, il Brini, gli ho regalato. Lo stesso, credo che 200 watt non ci arrivava, ma 180, 170 sì. Sì, il Brini, il BRL 200 quello si chiama. Sì, io conosco. Abbiamo giocato con quei lineari, finalmente. BRL 200, sì, un ottimo, meglio del BV 131, perché quello c'ha due valvole, molto più funzionale. Quindi tu vorresti dare il Jumbo Aristocrat per un lineare a MOSFET di che categoria? Beh, non dico pari requisiti, ma simile, cazzo, non è, non 747. Sarebbe da idioti fare uno scambio del genere, ti perdono. Vedo un po' perché mi pare che abbia qualcosa Massimiliano, adesso non lo so, stavamo parlando l'altro giorno di alcune cosette, ti faccio sapere se ha qualcosa da poter scambiare, anche se lui è contrario alle valvole, lui i lineari che ha sono tutti tra lanci storizzati 2.20, capito? Che è l'unica cosa seria, perché attenzione con le valvole, oggi come oggi non è che si scherza, capito? Rischi, caro Franco, di non addrizzare più. Perché? A varia frequenza. Superati 50 anni, sai, sì, in andropausa, è pericoloso per noi vecchietti, capito? Io la vecchiaia non la voglio giocare, cazzo, per mettermi più una valvola in culo. E cosa c'entra Franco? No, se c'è da Franco, perché Franco è 4 anni più grande di me. Ma sei tu il vecchietto? Ma sta di nell'aria, questo discorso l'abbiamo fatto una volta, oggi che ti gira che l'ho uscita a Carlo di Chiaramonte, no? Quando io avevo venduto il... volevo vendere il TL922, l'avevo chiamato, ho detto, Carlo, sto vendendo il TL922, ti interessa? La mia, no, Nazzi, no, la mia, anche già, c'è radio frequenza, voi non retto più. Sì, te l'ho conosciuto, mi sa che avevo provato il 140 a fargli fare la radio lì a Carlo. Sì, infatti l'ho accompagnato io. Ho ci riandato da solo con cosa, insomma, ricordo. Sì. Che poi aveva insegnato a me come si faceva. Una fesseria fatta. Era una fesseria. Andavamo a stare un po' con LG e tirando un bottezzi che si radio. Madre di Dio, ma l'unica cosa è che continuo sempre a dirti che so che non fare. Per il resto io non ho mai fatto nessuna riparazione perché non ne ho mai capito niente di quelle radio, quindi. Hai capito, Fra? Bisogna stare attenti a guardare le frequenze. Oggi, davvero, non sto scherzando, quasi tutti i radioamatori stanno passando allo stato solido, gli amplificatori così chiamati allo stato solido, che sono quegli amplificatori dell'RM Italy, della Sommerkamp, li sta facendo tante case costruttrici. Stanno facendo appunto gli amplificatori allo stato solido, quindi a transistor, non più a valvole, capito? È meno pericoloso in tutti i punti di vista, sto lasciando perdere così gli scherzi, no? A parte gli scherzi è veramente, è vero, la frequenza della valvola con l'andare del tempo può essere pericolosa proprio per la radiofrequenza che può causare anche tumori, attenzione. Avanti Danielito, ma tu sei senza vannuta Daniele, quel signore sarà già addormentato, eccoli un colpo di baraccabo. Magari, non c'è anche l'altra chiave per entrare, sono via fatto, già risolvo anche questo, se no qualche struzza la troviamo, dove ti righia. Va bene, l'importante è che mettendo altri 4 metri di palo, altri 2 spezzoni, che non oscilli troppo, capito? Cosa oscilla? Quando c'è piantone cosa oscilla? Una volta che tu metti il piantone, chi comanda il piantone? Il primo tubo dovrebbe essere bello solido, il letto del secondo solido, poi tiri su, la forza la mantiene, ma stiamo parlando di 6 metri. Ti ricordi, non so se ci siamo, penso di sì, eravamo ragazzi, ti ricordi quando abbiamo tirato su l'antenna di Marcello Atmosfera, che c'era la gente in via Pirandello facendo le fotografie? Allora, ti dirò di più che i pari si erano andati a prendere i numeri. Cazzo, una cosa così io... No, io con Marcello ci siamo visti da poco, ci abbiamo fatto 2 risate. Da pazzi. Fra, visti dai bari di Aruzzi, no? Tu togli praticamente dove innesta quello che fa la curva, no? Così chiamato, quello innesta la curva, oppure attacchi il lampione, di quelli lì 2 dritti, uno dentro l'altro e tirati su. Ripara un attimo io, scusate che mi hanno chiamato e qua è pronto, ci sentiamo domani se coincide. Ehi Daniele, capito Fra? Il corso dei lampioni, i fari. Libari della Ruzzi, ghisci di strada, 2, uno dentro l'altro, e tirati su e in punta la manto va uno. Che cavolo! Non sono pesanti qui! O quelli in resina erano. Regina, vedi il lattino, la canta in bollicina, è Regina, ha quattro bollici, è Regina, con le corde sono stati tirati su. Cavolo, molto pesante qui. Vabbè, però lui avendo la casa troppo in basso, devo portare di altezza. Va bene signore, dai, che mi allontano anch'io, così mi mangio qualche cosina, poi se ci siete più tardi rientro. Ehi, a te. No, quello era l'esperimento più grande che in tutta la mia carriera la CB, in tutta la mia vita non ho mai visto una cosa del genere. Lo primo maestrare fra, proprio il primo maestrale che c'erano qualche 16 o 17 tiranti, il primo maestrale che ha fatto, ne è caduto tutto dentro la campagna del vicino, guarda la paura, l'un anno che ha fatto Marcello, quando glielo ricordo ci mette ancora le mani in testa, tu immaginati cosa era successo, una cosa allucinante, erano mi pare un traliccio, mi pare che ragazzi 25 o 30 metri di dubbi, fatelo il gol, ciao a te, dai, buona cera, non so se dopo, se continua, se rimane Franco a fare due chiacchiere ancora, sì, se no spengo tutto, vai fra. Ehi K, ciao Tino, che sentiamo, vai. Ehi, non molto, altri 5 minuti poi, anch'io mollo. K, che aspetta, quello era... Come cavolo, si è saltato in testa a fare una cosa del genere, meno male non mi ha fatto una culo. Babù, ciao. Ciao T, no, perché praticamente lui sai dove abitano i genitori, adesso sono tutti e due sposati, sia Marcello che Maurizio, ma non hanno combinato, la greffa era quella, la greffa degli sbandati, per carità, sai dove abitano i genitori, praticamente quando stai scendendo cresci il chilometro e fai la prima curva per andare a Sosso, a sinistra lì, in fondo, quindi è molto basso, dentro un buco, lui per uscire è forte, perché usciva basso, mi ha avuto questa brillante idea di destare due di questi pali così, ma Piantone mi pare che era da 4 o da 6 pollici, a finire mi pare che era da 2 e mezzo, ne stati uno dentro l'altro. E tirati su, montate l'antenna e poi tirati su, 8 persone eravamo, siamo riusciti a fare un lavoro, un capolavoro, tanto ma lo primo vento, oggi mai dice l'antenna alla ginara. Ehi caffa, sì, già mi ricordo dove modulava Fabrizio, modulava da lì, casino di anni fa, e ce l'avete portata lì. Scusa frate, sono stato nel mio portacene, cosa hai detto? Ho detto che già mi ricordo che Fabrizio modulava la cosa lì, da quella zona lì, modulava. E che succede? Ma avete portato quei pali lì e portati sul tetto? Oh, sul tetto, a terra, la parete della casa, no? No, un villone grandissimo, ho preso una parete della casa a terra, no? Pinto, e poi staffati, sellati, mi pare che erano tre o quattro staffe, sellate a parete, no? A tassello chimico, e poi tutti i tiranti per mantenere bene tutto in tira, bei tiranti, ho fatto benissimo, però era talmente pesante il sistema, che chiaramente lì vuole tralicciato, se vuoi fare una cosa fatta bene, no? Come si fa? Lui però ha voluto fare uscire, ha sellato, fatte le selle a parete, due sotto, due sopra, e poi tutti tirati, capito? Però è talmente pesante, ti ripeto, il sistema, che il vento di maestrale che tira da morire lì, no? A Levante, il maestrale giuro, maestrale, prende Tintino, a Ponente, a Levante, a Libeccio, ad Alghero, brillava in pieno, anche se era l'antenna, perché la casa non arrivava al vento, era l'antenna e prendeva il vento di quanto era alto. Spingi oggi, spingi domani, ne ha traricato, a tassello chimico mi, non ne ha traricato il tassello, ne ha traricato lo muro, ne ha traricato il muro, quindi ne è caduto tutto. Cazzo, ogni danno che aveva fatto, mi ricordo. Cavolo! Ma che bagno di una paragrafa? Per carità, domanda, ti sto dicendo che la cosa da ridere oggi, ma il giorno era chiamata alle 8 del mattino Marcello. Tutto nel sceso, minchia, manco male non era nessuno che aggaggia a fianco. È caduto nel muretto, nel giardino, lampato muro, tutto, mi pare che era caduto sotto l'albero di frutta, aveva cazzo, come in come aveva fatto. Tu immaginati, per recuperare tutto, l'antenna si è fatta a pezzi, per recuperare il tubo, perché chiaramente è stato anche saldato nella giuntura, tutta a mola l'avevamo tagliato, l'aveva tagliato Antonio Riserva, tutta a mola. Altri tempi, tanto non si pensava a nulla, non si pensava, più giovani io. Sì, ma come ti dice Sassari, giovano giro capo di Bumma e Sciugas, una cosa pazzesca. Vuol dire che se l'antenna si vuole montare già si piazza, non è quello il problema, però lì, cioè, io decido di montare le antenne, scavatore, linto, cosa fatto bene, traliccio, allora traliccio sai che si usa per fare quelle cose, ma quando tu traliccio a parete, o piantoni a parete, o scelle a parete, o scaffi a parete, devi essere consapevole che non è che ti puoi alzare in picco, perché tira oggi, tira domani, qualcosa cede, capito? Qualcosa cede, parete a parete, non è che avevano un botto di raffondi da sedi, di ribaro da di tutto, immagini già di giù, a tassello occhini che piastrate, un bel lavoro, Visto così è un bel lavoro, non abbiamo calcolato il peso e la forza del vento che col peso, madre di Dios, è lì che è successo il casino, è trabugato tutto, mamma mia, l'ho messo, fisso che è un casino, cazzo, l'ho tramesso, che lo muro non è traricato. Cavolo, vabbè, il gasello chimico già non lo muove, dice già è forte, ma hai caricato il muro, ma il cavolo di lei, insomma, hai l'antena a me nel rubetto, papà, una cosa del genere. Sì, fa, quanto per va il vento, sono, qualche l'ultimo vento che ha fatto, che abbiamo preso a Sassari, era oltre gli 80-90 km orari, ma io mi ricordo quando ero in via Pascoli, c'è stata una macerata, a tipo Bora di Trieste, aveva fatto un poco di gasino. I venti sono venti, però ti ripeto, se una cosa flette, Franco, tu mi insegni che flette, è nella flessione, nella forza che ha, nella stabilità del montaggio, insomma, cerca un po' di tenere, ma quando una cosa non flette, fatemi dire, i cibari della luce sono quelli vecchi che facevano, adesso li stanno facendo leggeri, quelli che vecchi che facevano, schiedo a 40 mi. Hai compreso? Cazzo, pari a dubbio pieno! Senta, io quando ce l'avevo all'altra parte, nell'altro muro, già ci avevo, ma erano 12 metri di palo, due pali di 1 cm, uno dentro l'altro, fatti a me dispesi a misura, e stallati, 12 metri, mi ha detto, tu devi vedere quando facevo il vento. Lasciamo via Bulgaria. Sì, però magari sai, fletteva anche, non te ne accorgi, flette, ma non sono tubi così grossi, perché era da 4 a 6 pollici un piantone, fino a metà arrivava intorno ai 3 pollici, una cosa del genere, poi ne è stato l'altro, quindi l'altro peso, e poi tirato su, era una cosa pazzesca da vedere. Si vedeva dal chilometro, mi hanno arrivato la rotonda Vami di via Bascoli, si veniva, lui era sotto la valle, perché quella si chiama Valle delle, non mi ricordo, comunque, è così, capito? E vabbè, va bene, ui, hai detto bene, bei tempi, a me da mamma lo stesso, aveva attaccato lo dubbio di chi si innocenti, perché allora erano quelli i tubi, e avevo attaccato al coso dove mamma attendeva, dove attendeva la roba, sai che erano i sittighi, fazieni, un derrazzo, io per non far fare a muro l'ho messo lì, ho avuto due cavallotti e via, mi pare che ha durato 3-4 giorni ne farà due, lo dubbio da scendì, se sarei da mi cutto, e più avevo rotto anche l'antenna, il muro, tutto avevo rotto. Io prima di andare via un sito, ma faceva un dettolo che te l'ha fatta e poi andava e ti spendevi sopra, dici antenna, quale antenna? Allora, ma io poi lì a casa di mamma c'avevo due radiomatori, uno avanti e uno dietro, perché c'era la buon'anima di Don Feno, ISL0 DNB e Torre Burroni, che poi è andato via, adesso mi pare che abiti ad Alghero, quindi figurati, e io ci billi in mezzo, e non si vede a dice, visto la passione, che Dio ti benedica, mi dizia gente, la mazza che te ne varia, invece mi ha già filmato, invece benedimi, me ne farà tutto il capo. Orientali. Oh, buongiorno, io sono andato a Torino a farmi vedere due settimane di giorno. Ed era nel 90, per quelli mondiali del 90. E c'erano questi qua a fianco a me che non vedevano la televisione, non vedevano, io non c'ero. Adesso mi hanno chiamato carabinieri, e cosa non mi dicevano? E sono saliti e non mi hanno trovato. E sono andato da mia sorte, non ho detto che va bene, no, dice, è il continente, come il continente? Che sta disturbando il televisore, ma cosa? Se non c'è. Beh, alla fine gli ha detto il carabinieri, dice, io che quando viene dice di non interzere. Sono andato, mi ha detto di. E quelli di vicino ci vedevano la televisione e sono venuti qua a vincere. E io vabbè aiutato, io non c'ero. E poi dice, ma c'era la licenza? Certo, eccola qua. Gli do la licenza, tutto quanto, mi ha controllato tutto e me ne sono andato. Mi ha detto, dice, non ti preoccupi, va. Vengo a casa e mi smonto l'antenna, la moto va a 5, me la smonto. La metto dentro il coso, la massata, la metto e ci poi ha fiato un dipolo del 27 e sono andato da un amico e mi ha fatto gasto e finire da 600 watt e non lo vedeva più la televisione e pure si sentiva e non può essere lì, ha detto non c'è più l'antenna e ha fatto via, sono ricato più di due mesi per vedere la televisione. Sì, perché poi ti ripeto, qualsiasi cosa, io mi ricordo gli anni 80, in quegli anni lì, qualsiasi cosa succedeva alle TV, baracchino di Claudio, io non c'ero perché io ho iniziato a lavorare presto, tra l'altro in quel periodo lì lavoravo già fuori, non ero neanche a produttore, perciò quindi non c'ero, andavo da mamma, alla fine insomma, mi sono scocciato, infatti quando poi sono andato via, perché io sono andato via che non ero ancora sposato dopo l'ottore, abitavo a casa dei miei suoceri via Montegrappa e l'antenna è rimasta lì e mia madre alla fine mi ha chiamato, ma te cosa? Fara, una domenica a Manzano con tuo fratello, bocca a minni che l'antenna, perché ogni volta che non vedo la televisione mi suona il campanello, capito? E quindi sono andato, l'avevo tolta, era una mania, una persecuzione dei cimbica, non disturbavi, o disturbavi, sempre due eri. Avanti Antonello Pomponio. Ehi, buonasera a tutti e due, bene scucciti Cosa hai detto? Bene scucciti ho detto, poco fa ti ho chiamato un coso, quella di scuola con gli Aiso, adesso invece sono andate con la baracchina e basta, quanto una grande. Sì, ti ho sentito ieri, infatti ti ho sentito quasi quanto è Franco, anche Franco è 9.5, figurati, col portatile mi ha chiamato, ma già ti ho sentito, già ho capito che eri tu. Avanti Fra. Ehi capo, ciao Antonello. Perché adesso con come stai uscendo a l'autotrasetto? No, l'autotrasetto, almeno quello grande, perlomeno, l'autotrasetto, almeno quello lì, va bene, batte e avanza, non è portatile. Ah, ecco, no, perché stai arrivando bene, come il solito, no? Più o meno, diciamo, perché se attacco l'altro esco quella più forte, ma comunque sia, basta questo. lei a voi, a parte a voi. Sì, vabbè, io non me ne accorgo, intanto c'è sempre a fare lo scalero. Invece tu, frate, uscendo con... adesso tu c'hai un baracchino che non ha nessuno a Sassari. Tu stai usando il presidente Kenwood, no? K. Sì, sto usando... e sto uscendo basso anche. Sono, sì, quasi 8 batti, 8... quasi 10 modulati, dai. Sì, 9, sì, un picchio 9,5, quindi. Come te usi 80, si arriva? No, vabbè, adesso quello non si chiama più Presidente Lincoln, quello si chiama Presidente Kenwood. E fate da voi c'è la strada. Bello tutta la potenza, ma lo so già. Perché Pino mi ha detto che c'è molto meglio così. Allora, con tutta la potenza è così, è così. E vedi a vedere, adesso ho aumentato anche un po' la potenza. E così sono, ecco, 6 watt, una potente fissa. Poi i modulati sono 9-10. Sì, sì, sì, hai ragionettino. Se sollevi la potenza, un po' non te la satura, te la smorza, te la smorza leggermente. Mentre invece è così, con quella potenza lì vai bene. Come che stai usando il C80, guarda? Sì, Antone, lui c'ha un baracchino che non ha nessuno. Assolutamente, si chiama Presidente Kenwood. Presidente Kenwood, capito? Perché Franco sta usando il Presidente Lincoln, come usavo io un tempo, con l'MC60. Già ho capito, infatti mi sono accorto la stamattina. Stavate parlando di quello, infatti stamattina. Bella modulazione, c'ha, bella, chiara, pulita. Si è fatto l'adattatore da 8 a 5, sto usando quello lì, con le batterie. Eviti di comprare un altro microfono, intanto ne aveva due, lo ne ha fatti, io l'avevo già fatto quegli esperimenti. Gli avevo detto fatelo che esci bene, infatti esce benissimo, se metti usando il C80. Vai fra. Ehi capo, infatti adesso mi prendo il C80, mi prendo. Infatti, non me ne può. E stai bene qua, pierdo l'appoggio. Ehi capo, ehi va bene. Tanto non c'è, per quello che è, va bene anche un baracchino. Io avevo comprato 800 euro di 140, figurati tu. Poi mi hanno fatto un omaggio, mi hanno dato in pratica 4 Rosmet e una curvatore. Adesso è una cosa strana che già sono ricordato a Claudio. Quindi immaginati tu, a un certo punto c'era la valutazione in pratica 200 euro o meno, non di più di quell'apparato, ma mi spiace che abbia fatto la fine che ha fatto quell'apparecchio lì, quando l'ho venduto. Guarda, se lo vuoi te lo voglio 300 euro, ti do, se ho tanto. Non lo voglio 300 euro, no. Oh, ma sei fresco tu. Oh. Già venuto Antonello. Dimmi Antonello, domanda, stai usando il Superstar? No, 87 per esattezza, in questo momento qui. Alo 87, con microfono amplificato sta verità. Il Superstar se lo mangia, ti ho sentito l'altro giorno che sei entrato in radio e ho detto, Antonello quanto sta uscendo bene, cara. Quello che c'ha tanti bip, quello lì. Lo sai quanto esce bene il Superstar con quel microfono? Minchia, va bene, Lo so, anche questo. A parte l'altro apparecchio, quello che devo sistemare, che te lo dico anche tu, il Condes 4000, e quello è molto più forte di questo. No, ma guarda, il Superstar è favoloso, funziona molto bene, guarda, io l'ho attaccato sotto, l'ho fatto sentire. Ma è favoloso, ho provato l'MB più 5, me l'ha sentito Tino, anche Franco, va molto molto bene, vanno bene quelle radio, cazzo, veramente. Meglio della 87, c'è anche l'87, parità di modulazione mi piace più se passato, molto più bella, vabbè. Gappa, così è fra comunque, i tempi sono passati, adesso bisogna fare da bravi, goderci la pensione, la vecchiaia cosiddetta, si rilassa Gesù Cristo, si rilassa e via, capito? Però basta, cioè, se se mi metto, l'altro giorno guarda, quando stavo svuotando l'armadio, che ho messo tutto per terra, mi riparavo le lacrime, cioè soldi buttati, strumenti nuovi, ragazzi, fior di quattrini, quelli ad aghi incrociati, baracchini professionali, microfoni, stavo già tutto centro, ma adesso ho messo due cassette, ma belle massicce, pronte a portare in campagna, a parte quello che ho messo in vendita. Ma come si fa a buttare via tutti questi soldi, cazzo? La passione, prima non si vedevano i soldi che si buttavano, perché c'era la passione. Poi alla fine te li accorgi. Ma allucinante, lineari, ce ne ho due, vabbè, uno è HF, l'altro è 27 a valvole. Che lo stesso, anche quello è dentro l'armadio, conservato, perché lo lascio via, un bel pisato. Poi ne ho 4, 5, 6 transistorizzati, di cui uno transistorizzato a 220, che anche quello è in partenza, della ZG, 2002, il BV 2002, nuovo, sottolineo nuovo. Ma quanti vasi, tutta roba inutilizzata, solo pagata e messa lì da parte, roba da matti. Prendi, fregate tu, quanto ne vuoi di quello BV 2002? Transistorizzato, quanto ne vuoi? Guarda, quello è ancora in garanzia, lo sto dando, 250 euro. Ok, allora, uguale a Stefano, tale uguale. Stefano, io ho uno preciso, per quello te l'ho chiesto, lo stavo anche lui così, 250 euro, nuovo ho detto. E poi già lo sai che quando tira fuori modificato la bellezza di 800 euro, cioè di 800 watt a 600 euro, se lascia perdere. Quello con Bomber, quel tipo di linea, gli altri discorsi che ho fatto a Mario Marcel, era una bomba quel lineare, era veramente bella. Basta cambiare le distanze, quelle a 10 ohm, la possa essere un watt, invece basta mettere a 10 e tira fuori quasi 800 watt, tondi. Favola, ecco, sì, sono gemelli, precisi identici, tutti e due nuovi, cioè, abbiamo qualcosa in comune con Stefano, sì. Sì, infatti, io ho proprio chiesto a lui per vedere quanto si poteva vendere e sono stati valutati tutti e due assieme dalla stessa persona, quindi il prezzo è quello, perché costa un sacco di soldi, o costava un sacco di soldi. Quindi per dirti, no Antonè, lo sai, e tutte le altre cose, per carità di Dio, non mi sono mai reso conto cosa c'era dentro quell'armadio, se non il giorno che l'ho svuotato. Oggi butto tutto in terra, avere la stanza piena, la stanza di strumenti ce ne avrò anche sei o sette, a parte quegli altri professionali, ma di quelli della ZG ne avrò sei o sette, anche belli, cioè quelli ad aghi incrociati, belli, che sono quello che fa HF e il gemello che fa VU, tutti e due, tipo quelli che noi abbiamo adesso, capito? Però i modelli ZG, quelli alla live, però modelli ZG, guarda qui, dentro la scatola, non vengono altri due dentro la scatola, ma commutatore, no, guarda, non ci voglio pensare, lascia perdere, già passi tutto, e prendi fra, dai, un altro, quale sono? Ehi, quasi le 10 sono. Un altro passaggio, poi spiego tutto e mi guardo un po' di TV, dai, che domani c'ho una giornata abbastanza carica, stiamo finendo di mettere i paletti nelle uscite dei posteggi, praticamente degli ingressi delle stradine qua a Carbonazzi. Ma la mattina dobbiamo finire perché dovevo venire per il collaudo dei cancelletti, capito? Perché sono metà di condominio nostro, metà è comunale, quindi mi viene già metà del comune. Invece abbiamo messo i passaggi, dobbiamo alzare presto a chi lo va a Vigamuro, cazzano i gaggi da ruletto, oltre un cuo di volare la moglie, noi la manzana alle 7:15, 7:10, mi chiamo Campanello, ma dimmi dove sto rompe balle, riprendi fra. Sì. No, io questo qua ciò bevo 131, non mi piace manco grattarlo, valvolare non mi piace per me, la bocca era giubilato, ma non mi piace usare. Mi piace più trasistorizzato, schiacci e vai. No, fra, l'ho fatto solo io oramai, no. Io tra l'altro ne ho due, anche quello che ho preso da bambino. Per folle 2100, lo stesso quello l'ho staccato. No, non mi interessa, capito? Non mi interessa. L'altro è una bella bestia, è quello che ho io. E un RM della Somercamp, sempre a valvole, due valvole c'è lo stesso. È molto bello l'amplificatore. Però è meglio lo stato solido. Quelli che ho io sono tutti lo stato solido. Capito? Però non per la. Per la 27 sono i due piccolini, gli altri sono quelli grandi, HF. Però non li uso lo stesso. Non li uso lo stesso. In qualche giorno lo collego al 440 perché mi pare che uno abbia 40 RM Italy. Il 500 mi pare che ha 40 watt d'ingresso, quindi lo posso attaccare anche al 440. A provare. No, in questi giorni lo provo a se funziona bene. C'ha due ventole sopra. Però è a 12 volt, capito? Fortunatamente io ho 120 ampere, quindi non è che me la futta a sé, lo collego, già attira. Però per quelli veramente allo stato solido di quelli di ultima generazione sono tutti a 220, transistorizzati però a 220, come il BV2002, anche quello lì a 220 però è transistorizzato, no? C'ha 6 potenze. KK Antonello. 5 più 1, 6 in pratica sono. Siamo cambiamenti, a meno che non modifichi il transistor, già lo sai, anche tu. Quindi quello che c'è, da mezzo watt gli metti quelli da 7 e gli tira fuori 800 watt, come faceva Mario Marcel. Se ti ricordi bene, lo facevano schiattare. Nel palazzo, cioè non palazzo di fronte, ma a 520 miglia d'aria. Io mi ricordo, Mario, c'era un bel segnale qua. C'era un bel segnale. Sì, infatti, hai detto bene. Sono 5 più 1, perché intanto dalla quinta alla sesta non cambia. Non cambia molto, dai. Tant'è. Lavora bene, quarta e quinta, ultimo. Io quando l'ho provato, l'avevo fatto lavorare in quarta potenza, sino alla quarta, poi avevo girato in quinta e ho visto che incrementava un pochino, dai, però già andava bene. Vabbò, là ce n'è cose belle, fra, è che oramai per il periodo che per la gente che è rimasta non vale più la pena stare lì a... Io sono stato 15 giorni provando baracchini, microfoni, strumenti, ho provato tutto. L'ultima prova l'ho fatta oggi con la Superstar 360, 3600. Capito? E anche quello l'ho tolto, messo a posto, perché capita, fra, che le devi vendere le radio, io non voglio avere problemi con nessuno, e quindi ti do una cosa funzionante, testata e controllata, capito? Se no, per darti una cosa in rotta, me la tengo io, me la fotti tutta. Vai, fra. Ehi, capo, sì, per venderla rotta è meglio lasciarla lì, io pure mi sono dovuto fare, meglio metterla da parte, oppure la vedi come non funziona. No, ma infatti io già sì, c'è anche una 68 che c'è i finali bruciati, quindi dentro la scatola, finali bruciati, però in ultima, insomma, ci sono dei pezzi buoni, ci può anche, però quello si tiene, non si sa mai che capiti che qualcuno ha necessità di un pezzo e lì si dà, non è quello il problema, ma le radio che tu vendi, che devi darle a posto. Io ho questo Superstar, ti mando a voto, è lucido, non ha tattino, è perfetto. Nonostante gli anni che abbia, è lucido, le cromature non c'è una scheggia saltata, nulla, perfetto, anche le casse, i coppetti, tutto perfetto. E io così le radio le uso. una buccia di giogano. Vero, molto pompa, uscito sì oggi. Mi a bagnarsi il becco e andato tanto meglio. Sicuro, io sono tanto preoccupato, sono da pigliarmi il telefono più che altro. No, pensavo che era andato a bagnarsi il becco. Però stamattina sono uscito a fare delle commissioni, ero lì vicino alla CGL e sono entrato da. Ma Nico, prendiamo una cosa, 10 minuti, poi ho trovato tutta la greffa, mi hanno trattenuto e mi sono bruciato un'ora. Già lo so, già me l'hanno detto. Venuto Giuseppe qua, a casa stamattina, perché gli ha fatto uno sbaglio, ha fatto la domanda per il coso e al campo e non gli ha dato nessun messaggio, invece l'ha fatto alle poste, ci ha messo lì, un quarto d'ora, non di più. È arrivato a casa, è venuto qua, e ha detto guarda che fra 2 giorni ti faccio un messaggio. E infatti è arrivato il messaggio. È passato a casa stamattina lui. E lui ha detto cittadinanza, ha fatto la domanda. Esatto, sì, solo l'ha fatto al CAF, gli invia tutte le abruzioni, non è arrivato nessun messaggio. Invece a me sì, hai capito, è arrivato dopo 2 giorni. E anche non era addirittura, non sono altro. Ma cioè, Daniele l'ha fatto al CAF addirittura, a lui invece l'ha fatto al CAF che c'è lì, gli ha dato gli abruzzi, e ovviamente hanno fatto casino, chissà cosa hanno combinato, e da fare il modulo nuovo, tanto detto, non ti costa niente. Non ti chiedo nulla, ti chiedo solo che ho fatto l'identità, codice fiscale, quello che basta, non ti chiedo nient'altro. Se c'è la macchina, dichiara quello che c'è l'auto, quello, poi basta, dopo che ti ho detto, fammi giù che ti arriva il messaggio, ti notifica. E infatti ha fatto così stamattina, è passato a casa, mi ha detto 2:50, invece ho fatto quello che mi ha detto tu, meno male, tanto ho detto, io ti ho detto con questo caffè, ha girato le balle, io ci ho messo detto, un quarto d'ora, non di più, e così ha trattato lui. Tre posti hanno dato, gli hanno dato esito positivo, o ancora non si sa? Gli ho minimo Romani, domando con Romani, esito positivo, in pratica gli arriva il messaggio con il numero di protocollo, capito? Quindi in pratica esito positivo, sarebbe in pratica accettata, capito? È meglio così, sono contento per Giuseppe, no, io sono andato ma non c'era lui, c'era Vittorio e basta, poi ho trovato Franco Messina, c'era Aminetto, Giuseppe, insomma i soliti, ho avuto una cosa con loro, poi sono andato via perché era già tardi. Ero lì, io ero lì vicino alla CGL, lì vicino al caffè, via 4 novembre, dovevo portare il don dei documenti miei, i documenti di mia moglie, che lui va lì, e quindi ho fatto in moto, sono andato in moto, ho lasciato lì davanti alla porta sua, sono entrato giustamente, ero lì a salutare, e invece mi sono trattenuto un'oretta, forse meno, però Giuseppe non l'ho visto. Va bene, avanti Fra. Ciao. Va bene, dai Fra, io vi saluto. Non proseguo molto, ci ascoltiamo le prossime, alla domanda. Ciao Alessio, ciao Fra. Avanti Claudio, ripeto così. Ciao, buono. Ehi Fra, io avanti ci cose, ti dico, tu altri 10 minuti mi tratteremo, perché io non sono mai entrato a quest'ora. Perché stavo aspettando mia figlia, mi è uscita alle 10 dal lavoro e quindi adesso faccio compagnia a lei, mangiamo una cosa e così mi guardo la TV. Ciao Fra, a domani se coincide, grazie per le chiacchiere. Ciao Antonio, dai, ci sentiamo domani. Ma a proposito, ma Marco che fine ha fatto invece? Non si è più sentito? Boh, non lo so, la verità non lo so che fine ha fatto Marco. Non ho più chiamato, non ho più chiamato neanche lui, ha trattato, quindi boh, evidentemente ha trovato magari qualche ragazza da andare a sfogarsi e sta bene, cosa vuoi ti dica io? A un certo punto ci ha trovato una ragazza, sono contento, almeno cazzo, dove stava cazzo dentro casa buttato a girarsi così i codici tutto quanto il giorno cazzo, a quest'ora. Meglio così per lui, spero, perlomeno, poi non lo so, se magari, non lo so, sta facendo altre cose, cosa ne so io? Io gli ho detto, non puoi stare che ha buttato a casa a quest'ora qua, cioè ci notte con le zonte, dove la vai, no? Non è ora da uscire quella. No, ma sicuramente sto uscendo con Ivan e quindi, capito, sono impegnati. E cosa c'è la ragazza? No, a me mi ha detto che aveva ordinato su internet una ragazza di quelle gonfiabili, capito? La bambola gonfiabile, di ultima generazione, bella, bionda. E ha detto che almeno per fare compagnia a letto. Sì, se per quello l'hanno trovato a Sassari, una di quelle in mezzo alla mondezza che c'è. Cioè, a questo punto, guarda, me ne sarei stato male, mi avrei portato a casa sua. No, già ci siamo sentiti già. In questi giorni era impegnato, sta facendo roba a casa, e poi la sera a volte esce con Ivan, capito, proprio per non stare a ricoglionirsi alla radio, fa bene. Tu ti lamenti, andiamo alla televisione e sono una stanza corridoio, una stanza salone, fate conto quanto sono distante. Va bene, dai, che è arrivata mia figlia Antonella, ti saluto, ci sentiamo domani, ok? Saluta mia Simona, ciao. Ciao, ci sentiamo e ci vediamo. Ciao Franco, anche a te, ci vediamo e ci sentiamo, uguale, non cambia nulla. State dove tutti e due e poi proseguimento questa notte. Gappa, ciao, a domani.